fenomeni che sono variabilità individuale a fenomeni legati a fattori a specifici come sì. stanchezza, stress. Adesso arriviamo a parlare proprio delle malattie. Qualsiasi malattia che colpisce le porzioni del cervello, che come dicevo all'inizio sono molteplici, non c'è una singola area che controlla il linguaggio, qualsiasi essa sia, sia un ictus, un trauma cranico, un processo degenerativo, determina un disturbo del linguaggio che può avere una presentazione, un aspetto clinico molto diverso, cioè non dobbiamo pensare che solamente sono tutti uguali. No, assolutamente, non è che il soggetto non parla più, come si tende a pensare. Può succedere appunto, come diceva prima il professor Moro, che ci siano disturbi molto specifici della fonologia, della sintassi, della capacità quindi di combinare le parole, di scegliere le parole giuste. Alcuni pazienti con disturbi del linguaggio parlano in realtà molto, però parlano male, in modo incomprensibile, ma non male solo dal punto di vista dell'articolazione. Sì. Il loro linguaggio può essere normale se sentito a distanza, però semplicemente è incomprensibile. Tutti questi disturbi vanno sotto il nome di afasie, sarebbe più preciso disfasie, no? Perché sì, come dicevo prima, i soggetti parlano e magari parlano anche tanto, che possono interessare appunto la produzione, la comprensione. Interessano tipicamente anche il linguaggio scritto, se c'è un disturbo del linguaggio orale anche il linguaggio scritto ne risente direttamente, perché è in qualche modo dipendente. La prima cosa importante in questi casi, come sempre, è ovviamente la diagnosi, per la diagnosi della causa, perché ovviamente l'intervento risolutivo è quello sulla patologia, se è possibile. Certo. Un tumore cerebrale benigno che comprime le aree del linguaggio si è asportato, porta alla guarigione completa. Purtroppo sì. nella grande maggioranza dei casi non è così, cioè ci troviamo di fronte a patologie che hanno danneggiato queste aree e il potenziale di recupero dipende fondamentalmente dalla riabilitazione. Prima si inizia e più i risultati si vedono? Più che altro sicuramente iniziare precocemente è una buona idea. L'aspetto più importante che è venuto fuori dalla ricerca più rigorosa di riabilitazione afasia si parla dall'inizio del secolo, forse anche del secolo precedente, dico. È un aspetto della riabilitazione che è stato molto coltivato a differenza di altri. Gli studi più recenti che hanno introdotto, come spesso accade in questi ambiti, un rigore maggiore nella valutazione dei risultati, dei fattori che predicono una buona risposta, hanno soprattutto evidenziato che è importante un trattamento intenso, cioè non serve tanto fare una seduta alla settimana per un anno, ma sembra essere molto più importante fare 5 sedute alla settimana per un periodo di tempo. Quasi una terapia d'urto. Assolutamente, l'intensità sembra essere un fattore importante insieme ovviamente a un approccio adeguato, per esempio, fatto da persone competenti che studiano questo. Ma di questo mi sembra che il tema è molto interessante. Noi volevamo oggi fare proprio una carrellata, parlare del linguaggio, di neurolinguistica soprattutto, e infatti siamo partiti dai bambini e siamo arrivati a problemi seri di linguaggio. Su questo torneremo, professor Cappa, perché io devo salutarvi, la mia ora è finita. Saluto il professor Cappa e il professor Moro, ringraziandoli per essere stati con noi. Grazie. Grazie a lei. Torneremo. Saluto anche il dottor Roberto Raschetti, che è in linea con noi, che ho invitato per parlare di una campagna dell'Istituto Superiore di Sanità sul buon uso della fitoterapia, agopuntura, omeopatia, ayurveda, delle medicine che tante volte chiamiamo complementari, dolci, alternative. Dottor Raschetti, io sto sforando, buongiorno a lei, ci tenevo a salutarla e a darle in diretta appuntamento a domani, perché vogliamo parlare proprio di questa campagna che aiuterà ad un uso più consapevole delle medicine alternative. D'accordo. Grazie dottor Raschetti, grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani dopo il GR delle 11:00.